Vorrei chiedere al vento di portarti da me. Vorrei chiedere al tempo di fermarsi da te quando passo a trovarti se passa di lì. Tu mi chiedi il paesaggio com'è, ti risponderò niente di che, perché tanto il tramonto è soltanto un tramonto finché non sei qui. Dimmi se tutto rimane per sempre uguale o va bene così. Dimmi che il primo ricordo di me è che il buio da qui si illuminava. Sono come sembra, dimmi che l'amore è soltanto una conseguenza, ma stare senza come farò, è bucato la corazza del mio corazon. Web, il cielo è il nostro soffitto, la peggio è un letto matrimoniale, cosa ne pensi se usciamo da questo locale? Yeah, yeah. Dimmi se tutto rimane per sempre uguale o va bene così. Dimmi che il primo ricordo di me è che il buio da qui si illuminava. Pensare dai dimmi di sì, ora che è sabato anche lunedì. Andiamo in spiaggia, prendiamo due drink, resto in costume, dai togli quei jeans. Dai stai tranquillo, non sarà uno sbaglio, senti che caldo, facciamoci un bagno. Ricorderai questa notte che il buio da qui si